finta che ti ami. Perfetto Gianzo di Sacramento è un bandito da strada. Oh, non è vero, lo so, non è vero. Vada di non fidarti troppo un'altra volta. Non è vero, no. Questa notte la porta è venuta a rubare. Ma no. Non ha rubato, è vero, pure avrebbe potuto. Ha detto Nick che si gli ha venuto prender questo sentiero. È vero. Sbagliato, quel Cid è una linguaccia. Ma che va detto in sogno? Che il bandito sia giunto. La sua donna? La sua donna? Che? Nina! Nina Miguel Torino! Lo conosci? L'amante, quando capimmo d'essere giocati, traemmo dietro Castro prigioniero e prendemmo il sentier verso le palme. Eravamo aspettati, Nivea là ci ha fatto vedere il suo ritratto. Ma te di che ridi? Oh, di nulla, di nulla. Come va niente in te? E gli sei scelto Nina. Ana, ora ragazzi è tardi, buonanotte. Vi lasciamo dormire. Grazie, ora son calma. Andiamo. volete, io resto. No, buonanotte. Buonanotte. Ha ha ha. possibile trasportarne il fine. No, entro, no, entro. Non credete, non può riuscire. Entro, no, entro, no. Sto qui, se verrete, non sono qui. No, se verrete, nascondi, nascondi. Aprite la porta, voi, oggi. Resta, no, resta, no. Johnson d'inferno. N'ho seguito la traccia, deve esser qui, dov'è? Oh, m'avete seccato con questo vostro rabiris! Però per Dio ne son certo, non può esser fuggito, non può esser che qua. E cercatelo dunque, rovistate, dove vi pare, e poi di notte viene. Thank you. tua mano. Forse avrò graffiato. No, non c'è graffio. Guarda, il sangue ancora. È là, è là. Sacramento, la scelta a voi, accorda la pistola. Pronto, taglia. a te. Due mani sopra tre. Quante? Due. Che tu l'adori. Voi che trovate in me. Che avete? Io re. Io re. Cante. Regina. Hai vinto. Allora la seguente. Quante? Una. Due. Due assi e un paio. Niente. Pari, siamo pari. Evviva! Ora è la decisiva! Sì! Taglia! Franz, mi duole delle amare parole! Scarta! Ho sempre pensato bene di voi, Jack Franz! E sempre penserò. Io penso solamente che t'avrò fra le mie braccia. Vedi, vedi, ti vinco! Presto già, perché te, con poche cose stare. Che devo darvi? No! Andavo via, vedo, ma gli chiedi dov'è? Presto già, fino a chi deve rientrare. Svenuta la partita è perduta. E spagnoli,

nulla. Andiamo. Oh. necessario, troppo le dobbiamo. E tu, mio trino, poi resigna me. E dì, anche tu, non possiamo. Le prigi, incerti, e nel suo dritto, e partiva, è necessario. Vorrà. E tu vorrà. I padroni siamo noi, andiamo. E tu vorrà. Andiamo, ragazzi. È necessario. Non lo vorrei. 今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。 真正的女神不一定长发披肩，也可以潇洒干练； 真正的女神不一定全身名牌，也可以一身戎装； 真正的女神不一定来自秀场， 也可以走进军营。 来当兵吧，在军营里遇见最美的自己。 北京市热血新兵招募季现已全面展开，凡是驻京普通高校在校生、应届毕业生和具有北京市户籍高中毕业以上文化程度的适龄青年均可报名。查询相关政策请登录首都征兵网首页。 好， 我喜欢旅游，喜欢拿着单反到处拍照，拍美丽的风景，拍家人的笑脸。我会变魔术，女儿说我总能变出一个个袋子，把她旅游时吃的零食果皮统统装下。我还是个篮球运动员，总能把用完的矿泉水瓶准确地投入垃圾箱。你问我是谁？我只是个普通的游客。 每一位游客都是文明的使者，文明出游从你我做起。 I have a dream， 我有个梦。